Friuli nel mondo, 157esima trasmissione dedicata agli emigrati. Il Grillo d'Oro. Dal secondo festival della canzone friulana per bambini, il Grillo d'Oro 1966, svoltosi nel Parco Arrighini a San Giovanni al Natisone, vi trasmettiamo, cari radioascoltatori, l'ultimo gruppo di composizioni, nell'interpretazione di bambini che hanno saputo esprimere con tanta grazia le melodie e i testi dei brani per loro creati da musicisti e parolieri nostrani. Con l'orchestra diretta da Olinto Contardo, ascoltate le seguenti 5 canzoni. Vigiut, di Scozziero e Cimiotti, cantata da Maurizio Scolaro. Uce Stufe, di Candotti e Prenassi, nell'interpretazione di Patrizia De Sabata. Il Nono Alpin, di Savoia, con la voce di Maurizio Scolaro. Di Donato, il Mus de None, nell'interpretazione di Amalia Covassin. Ed infine, con Franco Braidotti, La Trombete, di Scozziero e Carminati. Come on. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Armete Pellizzari.